America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Beh, e devo dire, abbiamo passato ieri un altro limite con Donald Trump. Il presidente americano ha messo, e beh, devo dire, questo probabilmente lo avrete già visto dalle news, perché è una, stata una notizia che ha colto tutti un pochino alla sprovvista. Vi dicevo, il presidente americano ha messo in rete un tweet a cui era collegato un video in cui si vede che attacca una persona, la butta per terra, la prende a pugni e poi si alza e se ne va soddisfatto. Tutto questo di fianco a un ring, e questa persona ha il volto di CNN, cioè ha come una specie di maschera che raffigura il marchio della CNN. E qui stiamo passando a un Donald Trump nostalgico, un Donald Trump che guarda indietro al 2007, quando era comparso in diversi spettacoli di wrestling, questi spettacoli dei lottatori americani. E il filmato specifico è un filmato reale, perché lui andò in un palasport, andò vicino al ring e fece finta di mettere KO Vince McMahon, che era il CEO, l'amministratore delegato della WWE, della World Wrestling Entertainment Inc., la società che gestisce il wrestling professionista in America. E Trump così ha voluto dimostrare che anche lui era in grado di mettere qualcuno a KO. Però, devo dire, il fatto che l'abbia fatto nei confronti di un media americano e che poi abbia pubblicato un tweet in cui attacca la disonestà dei media americani e usa un soprannome per la CNN chiamandola FNN, cioè FNN, False News Network, un termine che tra l'altro può essere allargato alle altre reti televisive americane che Trump accusa di essere parziali, di essere di parte, e cioè la ABC, la CBS, la NBC e così via, così via. Questo apre naturalmente un problema molto più ampio, quello delle fake news, perché è il presidente che si rende poi protagonista lui stesso delle fake news, e di fatto qualunque notizia o qualunque commento che appaia nei media americani che a lui non piace diventa fake news. Questo naturalmente pone un problema di più ampio respiro. Io credo che siamo vicini alla fine o comunque alla determinazione di quello che è fake news e che non è fake news, perché andando avanti di questo passo non so dove si andrà a finire. Credo che nessuno nel contesto politico voglia continuare ad andare su questa china, che naturalmente non è una cosa buona per gli Stati Uniti d'America. Tanto più che ci sono cose importanti, serie, che capitano questa settimana, a parte il recupero del voto possibile, potenziale, sulla riforma sanitaria. Donald Trump si deve preparare al viaggio per il G20, questa è la settimana del G20, e io dedicherei la copertina proprio a questo, perché il G20 è un consesso molto importante sul piano multilaterale, è l'ultima aggiunta al contesto multilaterale sviluppato dagli Stati Uniti d'America a partire dagli anni 40 in avanti, ed è una creazione di Barack Obama. Inizialmente Donald Trump aveva respinto con un certo disgusto queste organizzazioni multilaterali, dopodiché ha capito che in realtà erano di un interesse molto molto importante per il futuro, per gli interessi degli Stati Uniti d'America. Questo G20 si terrà ad Amburgo, ospite la Germania, si dovrà discutere di questioni economiche mondiali, ma soprattutto di politica, perché nel G20 ormai si parla anche di politica, di lotta, di guerra al terrorismo. E non solo ci sarà l'incontro con la Merkel, non solo Donald Trump dopo questo G20 andrà poi a Parigi per partecipare il 14 luglio alla Festa della Bastiglia in Francia e si incontrerà dunque in un bilaterale con Macron, ma soprattutto, e questo è, come dire, l'incontro più atteso, ci sarà il primo vertice bilaterale con Vladimir Putin. Vladimir Putin doveva essere un grande amico di Donald Trump nelle prospettive della giovane amministrazione del nuovo presidente, poi è diventata una nemesi, è diventata una liability, come si dice da queste parti, per via del Russiagate. Vedremo come andrà questo incontro, vedremo come sarà l'alchimia fra i due. Io credo che sia l'uno che l'altro cercheranno di tendersi la mano reciprocamente per far vedere che comunque un dialogo fra Washington e Mosca è possibile, ed è un dialogo che alla fine, se è positivo, è nell'interesse di tutti. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione ma apre come sempre una nuova frontiera inesplorata. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, direi questo Trump in versione boxer che prende a pugni i media è la cosa che ha colpito più di ogni altro evento news nel fine settimana. E dunque io direi di riprendere una vecchia canzone di Bob Dylan, Hurricane, che racconta la storia di un pugile, Rubin Carter, che combatte anche contro il razzismo, oltre che con i suoi avversari sul ring. E dunque, in onore del ring che ha dominato il fine settimana dal punto di vista news, di Bob Dylan, Hurricane. Pistol shots ring out in a barroom night into Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood, cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane, the man the authorities came to blame. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!